ingresso? No, per l'uscita è solo. Perché sono presso la spia un ingresso dell'uscita? Ma io ne collego due, già fuori. E aspetta però, a uno si fanno le cose. Ah, ecco, beh. Ma scusa, le fotografie non le si fanno fare. Oh. Allora. Tu quindi, se hai un ingresso di uscita, una, per un po' di vigore, e tu c'è quella passante che prosegue, giusto? Ok. Prosegue, va, la trafì, entra e c'è il televisore, giusto? Sì. Yeah. Allora, ma ce ne metti due di quei connettatori lì, va bene? Ma non le incassa, le uscite, prendi quella che dici tu che non esiste, no? Le metti uno nell'altro, e poi gli estremi di quei due al centro. Oh la la la la. Sì, allora, aspetta, io qua, perché c'è come me, no? Allora, io, non mi capire bene, diciamo, la parte del maschio, io da lì fatto, saldo, la rimpicchia e vado a una parte femmina, giusto? Poi dall'altra parte ne fatto con un'altra, praticamente sono due, e vado all'altro capo della femmina, giusto? Perfetto. Praticamente ci fai un altro con il collegamento. Capito. Una V messa di lato, diciamo, così è. Allora, passi dal centro, gli unici, prima le prendi due, gli unici due passi, e li salvi all'ingresso. Poi le uscite di vivo. Vediamo se ne ho proprio qua, forse non ne ho. No, forse ne ho, perché ne avevo recuperato. Ma non mi ricordo se ne ho. Allora, 103. No, ci siamo, 103. 102 K. Ok, io mi vedo, va bene, perfetto. Sono tre, perché in una ce ne fa. In una ce ne va solo uno, 103. Una fortuna. 104. Quindi siamo, ve ho un po' questa. Questa qua si vede bene. Questa di più è 132, se non va bene. Vediamo un po'. 123. E mo, Giova. Solo uno ne ho. Ne ho solo una. Aspetta, vediamo un po' questa. Questo non ci vede un cacchio. 102, ecco, due ne ho già fa. Ma sono corti le zampette. Allora. Perché non costano niente questo, ma comunque. Allora, in uno il lavoro lo fai già, nell'altra invece un capo, il centrale lo puoi di dietro a uno, e nell'altro si mette come sapore. Allora, nell'altro lo collego diretto da una parte, poi dall'altra parte metto un condensatore in mezzo, sempre 102. Ok, anche quello 1 per 2 va bene, 3300. Quello 1 per 2 è più piccolo. Quindi, con quello che hai collegato dietro, vai poi verso l'altro grigatore. Quello di gatto piatto, quello che ho pensato prima, vai verso il TV, verso il primo TV, hai capito? Sì, sì, ascolta, un'altra cosa. Allora, questo qua è 123 però, 123, 103. 103, ma che cazzo è uscito? Ma no, Sergio, ma no, non vedo bene, cacchio. Fa il culo, questo qua, sono più grande ancora, Mi sembra 832, mi sembra. 1300, 1300. Un pezzo troppo grande, fatta lo stesso ma va male, fino a poco. No, 1.300. 5 di grado. Ho trovato un altro da 102 K. Attenzione, allora, molte case turistiche riportano allora fino a 100, fino a questo picco c'è la picchia, poi inizia l'uglio, si può essere anche la casa un po'. Capisci? In cerchi mettono l'acqua. Un picco fa l'acqua. Comunque 1-0-2 già fa bene, il picco. Glielo provo, Giovanni. Vediamo un po' come si comporta. Praticamente faccio un tavolo qua, cosa succede? Scusa. Allora, faccio un minimo. Lì praticamente non hai più la possibilità che hai con un super distinto, perché il coroide, quando si appoggi sopra del rame isolato così, no? Non risponde bene a tutte le frequenze, quindi fuori il secondo lineare ferro, non è molto lineare. Quindi cosa ti succede? Che magari verrai attenuato più canale 5 e picco in Italia 1, si è comportato un filtro, in poche parole, un droide messo così, non ha una risposta lineare. Adesso glielo provo, ma allora vediamo un po'. Quando sto allineato per verificare che tutto va così, poi l'aria lì. Funziona, stai tranquillo che funziona, come se funziona. Senza nessuna informazione lo vedi benissimo. Addirittura se questo avete un quindi da un filo col sicuramente, quindi sono vedi che gli altri frequenza HS, cioè quelli che hanno quelli negativi positivi 0, no? Una specie di puntino nero sciocca. Ciuti, rotondi, con dei puntini però, hanno dei puntini, di cui al fianco è nero, dall'altra parte è dorato, poi ha su due piccoli, uno verde e uno rosso, di quelli. Allora, come ho detto, nero, oro, allora verde, rosso, poi nero, oro. Allora, io ne ho due in mano adesso, ne ce ne sono più di lì, ce ne sono. Allora, uno è grigio, all'altro fianco, grigio oro, e su è rosso verde. Poi i puntini più grandi sono all'altro, rimangono. Poi l'altro è nero, oro, verde, quanti posso dire, verde, non è rosso, ma ci avviciniamo molto al marroncino, cioè al marroncino, oddio, amaranto, dai, poi c'è l'altro è rosso. Ti posso dire tipo, vediamo un po', tipo guarda, sono di colore celestino, dai, più o meno un celestino molto scuro però, Non ho idea. Ma come fai a sentire la vicinanza? Va, lo ti consiglio, va. O ti dico di no. Non so. Non so cosa risponderti su questo. No, guardi, poi c'è questo qua, arancione, dorato, nero e marroncino sopra. Nero e marroncino. Ne ho tanti, Tanti, ne avrò una decina, circa. Sì, ci sono, infatti, così la occhia croce, dici. Ne ho. Componenti recuperati sono, Poi ho delle lenticchie di quelle più grandette, molto più grandi di quelle piccole che ho recuperato adesso. Non lo so, poi ne ho altri che sono blu. C'è scritto 681 K1 KV. E sono cialettini questi qua, ho due piedini. Proprio 680, anche quelli vanno bene. 680 picco, un kilovolt. No, R600, guarda, faccio fatica a vederlo. Allora, 681 K, un kilovolt, sì, un kilovolt. Più o meno, adesso, sì, diciamo che sono piatti, dai. Tipo le lenti che appena appena più grossette. Quelli sono perfetti? Sì, R681 K. 680, quelli sono 680 picco a 20 volte. Ma no, è non solo uno di questi, cacchio. Non sono uno. Io sono uno. Questo cos'è? Questo non è niente. Io qua. Io sono uno. Questo però va bene. E come faccio qua? Di quelli là, tutti, ne ho trovato altri. Saranno una quindicina adesso. Solo che questi qua non vanno bene. Vediamo un po' questa qua. Aspetta, non riesco a vedere senza lente. Come fa? Non fa. Poi c'è questa qua, questa cosa a cacchione. Non ho scritto niente. Siamo fatti il cioccolato sempre. Sì, questi sono dei saltoni che rimangono un po' lunghetti, rotondi, con due piedini sempre. Tipo... un po' partetto sempre, con due piedini. Ma sempre che non so, sono lento di... mi dice di casa un continuo, una carriola. Che male è quello, Giunco? Non lo sapevo. Allora... Giova. Qua ci siamo. Allora io disaldo questo qua. Aspetta, ho lasciato la portata inserita, disaldo questo qua. Ok, ci siamo. Ci siamo. E qua non mi sta di saldare. Aspetta un attimo, levo la porta. Sono nel 20 perché c'era Pomponio, io mi stavo mettendo a posto la canna a pesca e niente, l'ho acceso, ho fatto il girone 10, non c'era nessuno, c'era Pomponio qua, poi c'era Coso, però c'è anche Antonio, tu ci sei ancora? Sì, magari questo è il risultato di quello che ho combinato, sì. Dai, dai, dai. canale, no? Per tutti, ciao ciao. Ciao, lo so. Io prendo un sacco di canali, quando mi vedi così. Grazie, io. No, vabbè, no, sono per problemi a mano, no, vabbè, non vuole stare niente. Aspetta che c'è la mia madre, che c'è a posto, poi adesso. Un po' come le può fregare. Va bene, grazie ancora, dopo, ciao. Ciao, ciao. La mia chiamato. Ehi, ciao Giovanni. Non lo so Giovanni, sono Antonio. Ti conosco che sia Antonio, ma ciao Giovanni. Buonasera anche a lui, dimmi sempre. Se n'è andato. Ci è andato a mangiare. Questo non aveva fatto niente qua. Sai che si sente questo portatile, Luca? Sì, è la Lucia per i battimenti.